Marina Ilse ha fatto una conversazione su questo tema, essendo che noi due siamo d'accordo, ma nella presa di posizione. Ma Marina ha una cultura molto arricchita dalle sue fonti proprie, che sono quelle giornalistiche, mentre io sono una filosofa. Sono della libreria delle donne, sono a contatto, quindi sono una filosofa, una donna d'avorio. E un giorno racconto quello che Marina avrebbe voluto raccontare. Sono nel Circolo della Rosa, che è annesso alla libreria delle donne, in via Pietro Calvi. Eravamo lì a mangiare. Marina era un tavolo, io ero un altro, però mi è arrivato all'orecchio di cosa stava parlando, e stava parlando di quella mobilitazione che poi avrebbe portato, credo, al 16 febbraio, quella grande riunione francese a Parigi, la data, se qualcuno di voi se lo ricorda, perché io sono come dire, vecchia. Il 2 febbraio era stata, il 2 febbraio. 2 o 3 febbraio. Ah sì, no. Con la Gaceschi. Perché non sentivo più l'orecchio, perché il mondo. Ma a voi sentite con questo? Sì, però tra noi due forse è quello che ci parliamo voce naturale. Il 2 o 3 febbraio, sì. Va bene, comunque non importa. Lei stava lì con la sua bella voce, la sua bella chioma e tutto quanto, e mi arriva questa sua bella voce che parla come preoccupata con un'altra per il successo crescente della maternità surrogata. Io non ero, confesso, era un anno fa, io non ero informata e quindi ascolto bene e mi dice la sua interlocutrice, mi pare che si sia avvicinata, una francese, e mi ha detto di che cosa si tratta. Anche tutta preoccupata anche lei, anche io dico, ma come siete preoccupate? Non siate preoccupate, non è possibile che una cosa così venga, capite, venga accettata. In un certo senso io l'ho detto così per tranquillizzarla, perché sembrava che fosse questa costume ormai di fare i bambini nell'utero di altre donne, fosse ormai quasi una moda. E allora poi parliamo un po' più seriamente e io ricordo la mia battuta e ho detto, ma no, proprio non dovete aver paura, perché i preti saranno tutti d'accordo con voi, che era vero, verissimo, tant'è vero che, ecco, però loro dicevano così, eccetera. E da lì io ho cominciato un po' a interessarmi e poi eccoli che arrivano i famosi preti, due miei amici della casa editrice della scuola di Brescia, sono cattolici, diciamo, del Concilio Vaticano, ecco, capite, sono quei cattolici più moderni e più così. Però secondo me neanche questi miei amici della casa, molto coraggiosi, adesso non importa che io mi metto a fare polemiche con quei due bravi uomini, e comunque mi chiedono di scrivere un libro per la cosa. Il libro io l'ho scritto, non so se l'avete visto, è intitolato L'anima del corpo, l'utero contro l'utero in affitto. Né titolo né sottotitolo sono miei. Il titolo è molto piaciuto. Io, non avendo trovato titolo, non potevo, sì, insomma, ho espresso un gradimento per il titolo, ma il sottotitolo me lo hanno strappato, perché io questo contro non ero tanto d'accordo, perché la mia posizione è critica verso il genere affitto, ma non è che è, come dire, polemica in contrapposizione. A me interessa anche esplorare le strade che ci possono essere per uscire da queste, che non è l'unico problema, questi dilemmi che ci porta, cui ci porta la tecnologia, essendo noi una civiltà che dal punto di vista tecnologico è avanzatissima e dal punto di vista etico e psicologico ha parecchie immatura, non dire immatura un po' semplificato, ma insomma non ha un livello di eticità che possa reggere e possa. Voi sapete quanti problemi ci pone la tecnologia, pensavo venendo qui a quel, mi hanno fatto anche un film interessante, a quel problema che ancora non è stato risolto, di genitori che avendo una bambina totalmente che aveva delle gravi deficienze fisiche, ma una rarità di per l'impianto di organi, oltretutto ai bambini bisogna impiantare se si fa organi, va bene, non entriamo in quel tema doloroso. E allora che cosa fanno? Fanno un'altra bambina, la fanno apposta, non è che la avessero, la mandano quella lì che era, non era per una sostituzione simbolica, era proprio perché lei desse gli organi alla sorella maggiore, arrivando a sorella maggiore in porto, per averne gli organi. Questo problema, questa la seconda poi, se avete visto il film, sapete che la seconda vuole sottrarsi alla paternità e maternità dei suoi genitori, diventare, entrare sotto tutela del giudice, per la risposta a questo uso che loro avevano fatto di lei. Ecco, questo è un problema che eticamente non è stato risolto, e ce ne sono altri. Poi viene appunto, tra le tante cose che si pongono, la subrogazione della maternità. La prima subrogazione che si è fatta in Italia è stata anche autorizzata, è stata fatta nel 2000, ma in una, e questo è il primo concetto che vorrei comunicarvi, in una situazione contestuale che, per esempio, claro, qui c'è una mia amica che è venuta qui volendo vendere i libri, poi ha trovato che erano già là in vendita, è una libraia, quindi no, è una professoressa anche lei. E nel 2000 che cosa è successo? Che una donna si è fatta mettere incinta dal marito di sua moglie e sua amica perché la coppia era sterile e lei ha accettato e così si è arrivati a chiedere al giudice, quando l'evento era vicino, lei voleva pubblicamente, apertamente rinunciare alle sue prerogative materne che nella società italiana sono piuttosto mancate, sono sentite, sono sancite dalla legge. Voleva rinunciare perché questo bambino che doveva nascere potesse portare nome e cognome, no, cognome sì, nome e nome, dei suoi, dell'amica e marito. Il padre era lo stesso, ma la donna no. Ecco, questo il giudice ha detto sì, questo è l'unico caso di surrogazione che è avvenuto col consenso della legge. Ma la legge nostra non prevede, non ammette, e non mi riferisco alla famosa legge 40, che in effetti in un righino, in un mezzo di un righino, punisce chi vende ovuli, chi commercializza il materiale biologico e della riproduzione, e anche chi commercializza o propaganda, perché c'è anche un divieto di propagandare, la maternità surrogata. Questo è un articolo, due o tre righe di quella legge 40, di cui voi sapete che in parte è stata demolita perché era scritta male, fatta male, concepita male, ma poi il capoverso, numero della legge non è stato modificato, ma non è quello il punto. In verità, il punto più è che tu rimane questa pratica della maternità surrogata. I punti, questo è un giudizio complessivo di una costituzionalista, Silvia Niccolai, ma il punto che a me interessa, cioè i punti di difficoltà maggiori, io non mi interesso di legge, me ne interesso come ogni cittadino e quando capita di dover affrontare questi problemi. E voi conoscete Socrate, se, ecco, Socrate è quell'uomo che è condannato giustamente a morte, invitato a scappare dalla prigione, ha detto: la maestà delle leggi mi comanda di restare qui ad aspettare la morte. Va bene. Mi è venuto in mente perché sto pensando a Socrate, no, perché è nata una scuoletta di filosofia fatta da bambini. Io sono la loro guida e il primo argomento che mi hanno chiesto di trattare, non è per fortuna assolutamente, è la vita dopo la morte. La vita dopo la morte. Allora volevo raccontare di Socrate, che è eccetera, puoi sentire quello che dicono, perché chiusa la parentesi. I due punti più rilevanti, secondo me, secondo l'opinione così più diffusa, la storia, dicendo che questa pratica va a montare, dopo vi dico la sostanza per me e poi parlerete voi, perché sicuramente ci sono, è un dibattito aperto e tutti devono cercare di essere minimamente informati e farci un'idea in caso, se non ci facciamo un'idea, leggiamo, ci pensiamo. Uno è la storia di un contratto, quello per la surrogata, che, perché la prima surrogata quella là, era amicale, era sulla fiducia, nessuno ha scritto una riga, niente, era una cosa che era venuta in mente a loro spontaneamente. Di fare un contratto per cui una donna è vincolata per dei mesi con il suo corpo, cioè in una forma che può essere ritenuta di schiavitù. Il secondo punto, cioè l'uso del corpo, e questo continuano le autorità europee a ritenere che l'uso del corpo, quelli che sono stati interpellati, insomma, l'uso del corpo non è ammesso. L'altro punto cruciale, guardate che tutte queste affermazioni hanno intorno una coroncina di obiezioni, di non è che è così semplice, io lo spiego semplicemente. L'altro punto altrettanto delicato è il fatto che ci siano dei soldi nella cessione, offerta, passaggio di un bambino. Questo è per diritto internazionale, non è assolutamente proibito. Lo sapete anche i poveri bravi genitori che avevano comprato e ai quali è stato portato via il bambino, che si era già affezionato a loro. Poi c'è stata una grande questione, ma insomma è un punto delicato. Non ci deve essere così. Non solo, noi non possiamo commerciare sperma, ovuli, eccetera, tanto meno possiamo far entrare dei soldi, eccetera. Ma la questione presentata così può entrare in inganno. In realtà è una questione, come dire, direi quasi, ecco, insomma, che lascia perplessi. Quella, io non volevo quel contro l'utero in affitto, ma subito contro, ma adesso spiego le vere ragioni. La surrogazione ha subito suscitato un terribile giro di soldi, un business che ha messo in movimento un'enorme massa di soldi e che ha creato, questo è un aspetto, che ha creato questo mercato, e soprattutto da una parte, dall'altra parte è capito anche che i genitori adottivi, aspiranti, chiamiamoli gli aspiranti, che non sono degli adottivi, no? Gli aspiranti genitori hanno cominciato, e la tecnologia glielo consente, a desiderare di mettere a loro qualcosa di in questo che ci fa pensare a quelle cose tipo Frankenstein, cioè quelle cose di manipolazione del vivente che fanno. Questo per me è una cosa, mi dispiace tantissimo che sia, ma è chiaro che le tecnologie della fecondazione assistita, è chiaro che ti danno il potere di fare di queste operazioni, ma non sul corpo sano, non su organi vivi, sani, che possono fare questo, no? Lo danno da questo potere di alterare un patrimonio genetico per sottrarre la persona a una nascituri, a delle sofferenze, a dei problemi, a delle malformazioni, quindi è finalizzato, sarebbe, è eticamente finalizzato al benessere umano. Qui non è questo, qui è il caso è che in questo modo, primo si stoppano le pretese della vera madre, della madre, basate sull'analisi genetica, del patrimonio genetico, perché lei è stata inseminata e alterata la sua, il suo corpo. Ma e questo mi dicono che è una ragione buona e primo è questo, e il secondo è anche non dico comprensibile, ma si indovina, è perché i genitori vogliono, aspiranti genitori vogliono riconoscersi nella creatura. E questo tutti, se voi avete partecipato a qualche discussione, assistito, c'è sempre qualcuno che dice potete adottare, ci sono, eccetera, ma qualcuno ha letto e non ha dato questa risposta. Se l'obiezione è questa, voi non capite di che cosa si tratta. Io di che cosa si tratta l'ho capito subito, è il desiderio di generare, di essere genitori nel senso proprio del generare. E quindi non è che con l'adozione, i genitori che prendono bambini in adozione sono persone che fanno un atto di altruismo, invece quelli che cercano di diventare genitori per la strada della surrogazione non è un atto di egoismo, è più forte e non si può neanche chiamarlo egoismo, è più forte dell'egoismo, ma più anche intenso, è la vita che reclama di riprodursi, e il loro desiderio sentito umanamente è un desiderio, ecco, non parlo delle maternità surrogate richieste per motivi di frivolenza, che le cronache hanno parlato di queste maternità che sono o hanno insinuato che sono fatte per proprio più per banale egoismo, ma il desiderio di maternità e di paternità, non so, io sono entrata in contatto, in vicinanza con queste cose, nel mio librino lo scrivo, ho conosciuto una donna che non poteva, scusate, tale, ma non poteva avere figli, ne soffriva da morire, ecco. Ed è morta così, cioè come si è ammalata ed è morta. E io dentro di me ho sentito che lei moriva da dolore di non avere figli. La surrogazione è un rituale, poi arrivo all'ultimo punto che è quello che ho tratto di più nel mio librino, la struttura, la seconda parte, pensate insomma, un'enciclopedia, scritto con grande passione. La surrogazione praticamente, e non so se avete visto, ed è una cosa niente bella, è fatta in modo che il neonato non rimanga a contatto con la madre. E avete in mente i gattini che non bisogna staccare la madre? È la stessa identica cosa degli esseri umani. Non devono, ecco, devono subito passare dalle mani, perché qualcuno aveva detto, tra le femministe, aveva detto possiamo fare la surrogazione, lasciamo la creatura per alcuni mesi alla madre e poi se la madre non cambia idea, ma voi sapete che tutte le surrogazioni fatte con contratto non consentono alla madre di cambiare idea, eccetera. Questa, quindi c'è questa necessità di che la creatura nuova entri subito in contatto con la donna che aspira ad essere sua madre. Cioè, nella pratica è questo ormai, queste cliniche che dice. Dico l'ultima cosa, quella che sta più a cuore a me, ma queste sono cose che Marina, chissà quando mai arriverà, Marina Terragni ha esplorato, visitato, documentato con una grande passione e competenza. Il punto che a me sta a cuore è la relazione materna. Io ho paura che con questa parziale invasione tecnologica e non burocratica, commerciale, perché si tratta di fare contratti, si tratta di passaggio di denaro, si tratta di doveri e diritti dell'uno e dell'altro, ecco, con questa, in questo modo noi distruggiamo o comunque si distruggiamo una delle cose della civiltà umana che è tra le più rispettate e apprezzate, tolti i regimi di schiavitù, tolto lo schiavismo che non ha avuto nessun riguardo neanche per quel legame, ma normalmente c'è questa cosa che è la relazione materna, che è un fatto di straordinaria civiltà che per giunta ci congiunge agli animali che non sono, non saranno nostri fratelli come pensava San Francesco o come pensano in quelle civiltà distanti, orientali, però gli animali sono nostri cugini, almeno cugini siete d'accordo, e poi sono anche, insomma, ci insegnano delle cose. Ecco, noi abbiamo in comune con una gran parte degli animali la cura dei piccoli, che è incantevole, una cosa meravigliosa, e che nasce tutto dall'istinto. Non vi racconto episodi su questo perché non sono, perché ho parlato abbastanza, uno solo però, se permettete, che vi racconto una storia in cui ho visto la cosa degli animali che mi ha così incantata. Dunque, il portinaio mi aveva portato un gattino dicendomi che se non l'avevano voluto nella casa vicina, portineria vicina, la gatta aveva fatto dei piccoli, non avevano osato ucciderli e mi portava questo gattino. Allora io tengo questo gattino che era un amore, anzi mi distraeva sempre dallo studio, dalla scrittura, era veramente per me, era troppo selvaggio. Allora io ho detto a quel portinaio, guardi, io torno in quella portineria e porto, vabbè. Andiamo in portineria e c'è la gatta, è in portineria della casa vicina, e io metto giù questa creaturina gatta, la quale corre verso sua madre, ci corre così, e proprio come volesse abbracciarla, ma non aveva imparato a ritrarre le, come si chiamano, le unghie. Il gattino, non educato dalla madre, non sapeva ritrarre le unghie. Allora cerca di abbracciare la madre, sicuramente la punge e lei fa vum, e lo fa proprio strisciare tutta la portineria, un coso così. Lui non si scoraggia e corre ancora e lei vum, lo ritaccia, ma garbatamente, infatti tu, lui il poverino strisciava sempre, ma non è che gli facesse del male. Insomma, sono rimasta lì a vedere finché lui ha capito. E ho visto come lei, un animale, un libro, un animale, sapeva educare le sue creature. Sapeva farlo, era una cosa straordinaria. Basta, le obiezioni, eccetera, esistono, io se qui ce ne sono sarò contenta, saremo tutti contenti di ascoltarle. C'è qualche domanda? Chiedo scusa in effetti credo così in particolare a Luisa, ma a tutte voi, ma è andato tutto storto oggi. No, mi inserisco proprio su questo tema perché io e Luisa abbiamo fatto questi librini quasi in contemporanea, no Luisa, cioè proprio, ecco, no, appunto vi ha raccontato che in qualche modo nasce da uno scambio che ci siamo fatte, invece io devo tantissimo a Luisa e Luisa deve a me solo il suggerimento, devo tantissimo a Luisa in generale per la mia vita, ma il suggerimento di questo tema a Luisa incidentalmente, diciamo così, l'ho fatto io. Però Luisa mi ha restituito una cosa, adesso dico che cosa mi hai, una cosa importante che mi hai ridato, e che è il fatto che la questione può essere presa, viene presa normalmente da uno o dall'altro dei seguenti punti di vista. Dal punto di vista dello sfruttamento della donna, o dal punto di vista dello sfruttamento, diciamo, della vendita del bambino e dei diritti del bambino. Nessuna di queste due prospettive è soddisfacente. E Luisa appunto ha avuto un'intuizione simbolica che mi è servita moltissimo. Ma si sente perché c'è un imbulbo? Non so se sto gridando troppo. Che mi è servita moltissimo a ragionare e a riorientarmi, e cioè che il punto vero era nell'andare a toccare questa relazione fondativa che è la relazione tra madre e figlio, e che in qualche modo discernere tra la madre e il bambino è anche metodologicamente sbagliato, perché si va a toccare una relazione in cui il due di quei due in realtà non si può distinguere dall'uno, e in questa relazione dove si vede bene l'interdipendenza tra umani come dire, proprio fondativa di umanità e di civiltà. Quindi questa mi è sembrata l'intuizione, il regalo che mi ha fatto in questa circostanza Luisa, non so se l'avevi già detto questo. E secondo me è da questo punto di vista che si deve ragionare. Questa è un'intuizione molto giusta, ed è una questione, in questo senso la questione della surrogazione di maternità o GPA è una questione cruciale, perché dentro questa vicenda passa moltissimo che poi va fuori, oltrepassa la questione stretta della surrogazione. Per esempio, in questi giorni sta girando, ma lo trovate anche online, un film di Eric Gandini che si chiama La teoria svedese dell'amore, e racconta l'utopia realizzata di Olof Palme, del Partito Socialdemocratico Svedese, che nel 72 fece un manifesto di cui adesso salto la citazione, ma in sostanza l'obiettivo era quello di rendere gli individui più individui possibile, e quindi più sganciati dalle relazioni tra genitori e figli, tra figli e genitori, tra uomini e donne. Ecco, e questa utopia realizzata oggi è stata messa nell'obiettivo da questo regista, che tra l'altro è qui a Livorno, ma vive là, e ha fatto questo film che si chiama La teoria svedese dell'amore, dove si mostra l'Occidente come terzo mondo delle relazioni, dove si fa vedere che in Svezia ci sono uffici appositi che devono risolvere la questione di chi muore senza nessuno, sono tanti, senza legami, quindi di questi devono capire cosa devono fare, dove sistemarli, come sistemare i loro beni e così via. E poi c'è un ricorso molto molto ampio, per esempio da parte delle donne si rivolgono in genere a una clinica svedese per l'autoinseminazione. Il controcanto ideale, prego, devo inserirmi qui perché una per me gioca di tono. lei, il punto principale è che nessuno deve mai trovarsi nella necessità dell'aiuto di altri. Quindi ci deve essere tutto, lo Stato deve assicurare a ciascuno la completa indipendenza della persona. E lei ce l'ho decantato, lo trovava bellissimo, e noi gli non ridete. Sì, ecco, il controcanto ideale a Olof Palme è di una femminista importante che si chiama Carol Petman, scusate, che ha detto, adesso mi è scappato il foglio, non c'è mai un tavolino, ma insomma, ha detto nel suo libro Il contratto sessuale, credo di dirla giusta, ma al massimo la sto parafrasando, ma di poco, l'individuo è un uomo che fa uso del corpo delle donne. Questo ha detto, che rovescia quello che diceva Palme, cioè l'individuo è la magnificenza della totale autosufficienza. Ecco, questo primato della relazione è un'idea di libertà che il femminismo ha messo in primo piano, cioè non la libertà dell'individuo isolato, ma la libertà dell'individuo in relazione, come se l'atomo fondamentale non fosse uno, ma il due. In questo senso la questione della relazione materna, che costituisce la matrice, la testimonianza che noi vediamo poi appesa in tutte le chiese, in molte delle nostre case, e quindi vuol dire qualcosa quello continuo richiamarci a questa esperienza, toccare lì si va a toccare qualche cosa di fondamentale per le nostre esistenze, appunto si va a toccare qualcosa che prescinde poi perfino e supera perfino nella sua pericolosità l'orrore dello sfruttamento delle donne, in particolare delle donne povere, e diciamo la difficile esperienza a cui sottoponiamo una creatura che nasce in questo modo. Luisa, vuoi dire qualcosa tu o vado avanti io? No, io questo è un punto, questo qui che tu hai toccato, che anch'io ho toccato, non è che lo possiamo paragonare ad altre nefandezze umane, tipo la schiavitù, tipo la prostituzione, la tratta delle bianche, la tratta delle prostitute, eccetera. Il valore della relazione materna è un valore di civiltà, è qualcosa, ecco, ed è una civiltà, non una civiltà fatta di cose, è una civiltà fatta di sentimenti, di atteggiamenti, di misura, di equilibrio e di giochi anche, perché naturalmente, eccetera. Il vero è che la relazione può spezzarsi, la relazione materna, ci sono creature piccole che muoiono, ci sono madri o padri che muoiono troppo presto. Bene. Questo è inevitabile nella condizione umana. Quello che Marina condivide di me, o forse lei stessa, con molta forza, è che non possiamo programmare questo distacco. Ecco. Non possiamo spezzare in anticipo, secondo un programma addirittura contrattuale messo nero su bianco, perché questa cosa, a prescindere dagli effetti negativi che può avere sulla madre che resta senza creatura, sulla creatura che resta senza madre oppure ne ha una, eccetera, a prescindere da questo, quella cosa lì fa del male a noi, dentro di noi, e danneggia noi. Chiunque vivere una civiltà che accetta questa cosa così e basta. Sì, appunto, diciamo che la possibilità di tagliare per contratto questa relazione, cioè in fondo che il mercato mercato entri a tagliare, perché il mercato è il dominus di questa vicenda della surrogacy, non le donne, né i cosiddetti genitori intenzionali. Chi detta le regole, stabilisce le tariffe e le modalità è il mercato. E appunto, tra l'altro, ci siamo dimenticati in questa circostanza, sembrano svanite, in particolare da parte dell'opinione pubblica progressista, e su questo dopo vorrei dire due cose, tutte le consapevolezze che noi avevamo sulla psicologia neonatale, dei bambini, su quanto tempo per esempio una creatura ci mette a individuarsi, perché voi saprete che per un lungo tempo progressista, la gravidanza continua dopo il parto, e per lungo tempo questa relazione è talmente stretta che il bambino si sente lui stesso parte della madre, quella che Winnicott chiama la sarabanda infernale, perché poi in questa relazione non c'è solo l'amore che noi vediamo rappresentato, beatificato, ma c'è perfino l'odio, ci sono relazioni, c'è tutta una temperie di sentimenti attraversando la quale la creatura dopo 2 o 3 anni, a seconda delle scuole, si sente qualcosa di diverso, un individuo, una persona diversa. Vai. La mia obiezione è che le creature neonate hanno uno straordinario dono che, quando hanno perso, per qualche motivo disgraziato, la persona di riferimento, che di solito è la madre, se si costituisce, quindi diversamente dalla pratica di una volta che era di mandarli in prefotrofio come numeri collettivi, e ancora adesso, se invece questa creaturina può stabilire un rapporto preciso, un riferimento a una persona precisa, uomo anche, e secondo le leggende perfino un animale, ma se ha un riferimento preciso, ricostituisce una figura materna, lo può fare. La madre non può prendere qualsiasi bambino ed è la stessa cosa, no, la madre resta privata della sua creatura. Ecco, mentre i bambini, bisogna considerare questo è un elemento, diciamo, in un certo senso, che restituisce bontà anche alle relazioni ottenute con il mercato della surrogazione, perché una donna, un uomo che desiderava tanto suo bambino, il bambino è capace di investirli di amore, di investirli perché ha bisogno, perché tutto, eccetera. Per quello io insisto piuttosto sul dire, guardate che se noi usiamo, cioè manipoliamo la relazione materna, la facciamo, la dischiamo, la mettiamo in contratto, è pericoloso per noi, perché facciamo di mettere le mani su cose che erano fatte benissimo e noi con la storia dei soldi, là ti do veramente ragione per la storia del senso. Sì, infatti Luisa dice nel suo libro, la creatura è molto brava, è capace a ricostituire quel tessuto lacerato. Il problema è che questa lacerazione magari si produce, voi sapete che per esempio nel nostro paese una donna può partorire e non riconoscere il bambino, questo è consentito dalla legge, però lì è capitato qualcosa, c'è una disgrazia, c'è, oppure può morire, c'è un disinteresse, c'è una sua incapacità, c'è la sua povertà, non c'è però un contratto che pacifica una cosa che non è affatto pacifica, cioè quella rottura di quella relazione. Molte persone di buona volontà continuano a insistere sul tema della regolamentazione. Dicono, ma però se regolamentiamo evitiamo gli abusi, se regolamentiamo quelle donne saranno protette, quei bambini. Io non so come avevate organizzato, voi pensavate di porre qualche questione, e se no continua questo nostro monologo intermittente. Sì, allora di principio, Mater Semper Certa Est. E viene intaccato perché? Beh, anzitutto per garantire il cospicuo investimento dei cosiddetti genitori committenti, che giustamente Luisa dice genitori surrogati, lei li appella e dice surrogati siete voi, perché quella creatura sua madre l'aveva, siete voi che avete disposto tutto questo e avete voluto surrogare questa relazione. È chiaro che lì, se io investo 120, 150 mila euro o dollari che siano, ho bisogno di avere garanzie che quella donna viene cancellata come madre, e in genere poi sparisce proprio, cioè una cosa che viene acquistata è la sparizione della madre, e deve sparire anche, con un'eventuale regolamentazione, sparirebbe anche ai sensi della legge, cioè lei rinuncerebbe per sempre a ogni diritto a stare in relazione con la creatura. Sta di fatto che regolamentare, quindi anche nel modo più light, anche nel modo più, come dire, apparentemente solidale, significa aprire la porta non solo al mercato nero, ma questo proprio mutamento importante, perché in tutti i luoghi del mondo vale questa cosa che Mater Semper Certa Est, ma perché è riconosciuta anche dalla creatura, cioè la creatura riconosce quella come sua madre, captando una serie di segnali che noi possiamo intuire, l'odore, il calore, la temperatura, il ritmo cardiaco, si rivolge a quella donna che ha avuto un ruolo normalmente epigenetico e non genetico, e vi voglio dire che però si dà molta importanza alla genetica e poca all'epigenetica, cioè a quella relazione che farà di quel bambino, di quella creatura, gran parte la persona che sarà, perché con la genetica di nuovo follow the money, segui i soldi, con la genetica si fanno affari, con l'epigenetica questo non è possibile. Volevo dirti, perché tu l'ho letto nel tuo stesso libro, che la legge, le leggi in tante parti del mondo riconoscono alle bambine e bambini che non sono cresciuti con i loro genitori biologici, naturali, a un certo momento, a una certa età, di cercare le loro origini. E una delle questioni che si pone con la surrogata è proprio questo, perché la surrogazione, così come viene praticata, comporta la cancellazione proprio anagrafica, cioè la ricerca delle proprie origini diventa impossibile. E questo non è un problema solo burocratico, questo è un problema perché tutti gli esseri umani hanno, non lo so, dicono bisogno, desiderio di sapere chi è padre e madre. Vi ricordate da bambini che vi sognavate di essere figli di una regina o di un re? Perché? Per così, perché i genitori ci sembravano troppo modesti, non so. Ecco, questa cosa non è che diciamo, avevamo in mente questo sogno di da dove veniamo. E allora alcuni psicologi pongono il problema ai bambini delle coppie surrogate, come le chiamo io, a quando diventano, ecco, sì, questo sì. Io ecco, volevo dire che è un punto, ci sono tante cose insomma che vanno messe male, però prima mi hanno chiesto anche qualche argomento di chi è a favore della surrogazione. Ecco, tu Marina ce l'hai qualche cosa di positivo da dire su questa pratica o proprio niente? Sì, allora ti voglio dire che mio papà era un re, era un grande re, era un pazzo. Fai un'aria regale. Allora, io preferisco tua mamma, mi vuole bene tua mamma. Ah sì, ma mia è una regina anche lei. La moglie, esatto. No, volevo, sì, c'è una possibilità molto interessante che però in un mondo governato dalle leggi del mercato è difficilmente praticabile, che è quella di due donne che tra loro entrano in questa relazione profonda di dono reciproco, come abbiamo fatto con Luisa, che io ti ho regalato l'argomento e tu mi hai regalato una lettura simbolica importante, tra loro, perché sono legate dalla parentela, da amicizia, da amore, si fanno questo regalo, cioè una delle due porta in grembo il figlio che l'altra, per ragioni di salute o per qualunque altra ragione, non potrebbe portare in grembo. E poi riparto con in questo caso è la cosiddetta solidale, che però si realizza rarissimamente ed è regolata dai tribunali in Italia, è già capitato una roba del genere, sì, l'ho raccontato, sì. Ecco, in questo caso che cosa succede? Che il bambino non quella donna non scompare dalla vita del bambino. Io faccio un esempio delle balie, delle famose vecchie balie d'Alata, adesso non ci sono più, e che entravano in relazione amorosa sia con la creatura che con la madre e la famiglia della creatura. Faccio l'esempio appunto del re, mio padre, il quale aveva una balia d'Alata con cui era in tenerissima relazione, l'andava a trovare, aveva i fratelli di latte, quindi qui si realizza un più di amore. Si realizzava un più di amore e di relazione, in cui le cose magicamente trovano una loro sistemazione simbolica, non vengono in qualche, cioè non si produce un disordine simbolico, se si può dire così. Sì, è quello che io considero la maternità allargata, che si moltiplica, si automoltiplica, e questo in effetti la maglia da latte è l'esempio tipico che c'era una volta, ma ci sono anche altre, cioè le nonne, le zie, poi ci sono le tante, ci sono, ecco, la famiglia mononucleare che conosciamo noi è recente. Una volta c'erano situazioni di maternità distribuita, come la luce che si... Esatto, un bambino, la nascita di un bambino è un evento che riguardava il gruppo allargato, adesso il gruppo è ristretto, questo mette in grave difficoltà le mamme, ma qui abbiamo, ci mettiamo in un'altra situazione, perché non è naturale per una donna stare sola con un bambino fra quattro mura, poi di tanto voi sapete che succedono delle cose, ma la situazione naturale è quella della condivisione tra donne, lo vediamo perfino tra le madri del mondo animale, questa specie, questa condivisione. E comunque questa cosa di fare questo dono non ha bisogno di alcuna regolamentazione, cioè i tribunali lo autorizzano, lo danno il permesso di fare questo una volta accertata che ci sia una... Poi il passaggio di denaro, noi naturalmente stiamo molto attenti alla questione del passaggio di denaro, ma per paradosso, la balia d'Alata, povera donna, che prendeva questi bambini di altre donne, e lei prendeva un compenso. E chi accudisce i nostri figli prende un compenso. Se io, come dire, se due donne si scambiano questo dono, può essere che una delle due faccia un grande regalo all'altra. Non è questione, è questione di che cosa significa quel passaggio di denaro. Non è il denaro in sé che segna. È quello che segna è il denaro che serve a pagare la madre perché scompaia. Cioè io, se pago una donna perché scompaia, paglia. Qui entriamo in un altro, appunto in un altro mondo, con Luisa, diceva prima con la storia della regina, questa storia delle origini, che chiunque abbia un'esperienza di adozione conosce nella sua complessità, ma noi sappiamo che in Inghilterra, per esempio, che è stata la pioniera delle tecniche di fecondazione assistita, Louise Brown, eccetera, prima c'era l'anonimato del donatore. A un certo punto, quando, dato che dopo una ventina d'anni questi bambini nati in questo modo hanno messo in piedi delle vere e proprie class action, perché hanno rivendicato il diritto di risalire le proprie origini, e ora le normative, a cominciare da queste imprese, stanno evolvendo in direzione del non anonimato del donatore, che mette molto in crisi la donazione, e tant'è che i donatori vengono pagati, se non si, e quando non vengono pagati, come in Italia, non dona niente nessuno. Io, mi sono fatta perdonare, e quindi se qualcuno... Ci sono altre domande? Ma veramente Silvia, funziona, funziona. Silvia, tu avevi fatto una domanda, la... No, è stata, no, la legge, la l'eterologa è consentita, eterologa, cioè usando semi o bocciti, oggi è consentita anche in Italia. Con un limite di... C'è un limite, sì, poi ci sono, come dire, le cose applicative, adesso non mi ricordo. Ma insomma, alla signora, alla ragazza, volevo dire, questo signore potrebbe trovarsi 10-18 anni, ma ci sono stati anche dei figli, 10-18 anni di entrambi i sessi che si presentano a casa sua e lui magari non ha voglia di impegnarsi in questa relazione. La sua generosità è finita lì. Per le donne è più complesso, perché ho letto l'altro giorno Saviano, sono veramente infallita, perché Saviano è un bravo ragazzo, però quando ogni tanto mi parte l'embolo, quando parla di tutto di più, cioè che diceva: donne, non siete generose, donate i vostri ovociti. Allora, la donazione di ovociti in Italia praticamente non esiste. Ricordo che comporta stimolazioni ovariche piuttosto pericolose per la salute, pick up degli ovociti, vuol dire in anestesia generale ti prelevano gli ovociti e dopodiché l'ovocita viene donato, insomma, non è proprio una pratica a rischio zero, così come gravidanza. Tutte le donne che sono state incinte sanno che la gravidanza è un'esperienza per alcune meravigliosa, per altre terrificante, comunque non a rischio zero per la salute. Comunque in Italia, per completare la formazione, l'eterologa oggi è consentita, ma non è consentito il commercio di gameti. Tant'è che avete sentito quell'orribile fatto di cronaca di questo, non mi ricordo come si chiama, Antinori, che adesso è agli arresti domiciliari perché pagava le ragazze sui minuti. Sì, accusato, e però la beffa era che se non venivano, perché può anche succedere che dal pick up ovarico, cioè dal prelievo, non vengano fuori ovociti buoni, non le pagavano. Quindi la roba proprio, cioè proprio proprio dei corsari. Io ho una domanda. Io non riesco a capire, anche sull'esempio che avevate fatto sulla Svezia, sulle persone farle diventare sempre più individue ed autosufficienti. Io penso che questo sia proprio irreale, cioè come possono le persone essere così irrealiste, fuori dalla realtà, da comprendere che una interdipendenza è necessaria? Cioè, proprio non riesco. Gliel'abbiamo detto, sai, a quella nostra amica. Gliel'abbiamo detto. Andate verso Vanno, perché lei tornerà in Italia. Vanno verso una civiltà insensata, ma sono sicura che, sono, essendo gente intelligente, saranno già al lavoro del pensiero per capire che è sbagliato. Perché io non mi ricordo, ho sentito ancora tempo fa una conferenza sul genere e non mi ricordo se in Svezia, Norvegia, ma penso fosse Svezia, c'era addirittura una persona, una donna che si è andata in comune e si è sposata con se stessa e gli hanno fatto fare il matrimonio. No, voglio dire, sì, vabbè, questa è più la follia, però voglio dire, com'è possibile che sarmi a questo pensiero, non dico la cosa burocratica di legge, proprio a questo modo di pensare. Cioè, vuol dire non accettare la relazione, vuol dire io non mi relaziono con nessun altro. Non è necessariamente così, vuol dire che le relazioni si stabiliscono fra individui totalmente autonomi e quindi nessun rapporto di dipendenza, e quindi sono delle relazioni libere, perché ecco, ci sono tante risposte possibili. La discussione infatti quel giorno è stata intensa, perché la giovane donna che è venuta a spiegarci questo principio, che lei, di cui lei ha risalito le origini, lei difendeva questo tipo di situazione e la viveva anche in modo contraddittorio, perché naturalmente lei aveva bambini, i bambini erano nella dipendenza, ma questo nella civiltà europea, trovarsi in questa dipendenza è considerata una condizione umiliante. Un giorno mio nipotino mi ha detto: nonna, tu mi disprezzi. E io sono caduto dal pero. Secondo l'analista mio, il bambino aveva indovinato che io, essendo grande ed essendo cosa, lo trattavo in un modo sprezzante dall'altro. Ed è possibile, cioè la questione della dipendenza è una questione che non abbiamo elaborato neanche noi. Neanche noi. No, c'è forse una cosa in più, Luisa, che si può dire. La dipendenza vissuta come fragilità, cioè che salta fuori nei momenti più di maggiore debolezza della vita. Vedete, noi viviamo, non sappiamo accettare il fatto di vivere costantemente in relazioni di interdipendenza, ma anche perché forse nella dipendenza si intravede appunto quella relazione, quell'essere nato dal corpo di una donna e quindi essere stati dipendenti da lei, che l'emancipazione, diciamo, maschile da questa condizione chiama l'assoluta indipendenza, come perfezione dell'umano. Ma abbiamo visto, Rizzolatti ha fatto con la sua equipe una commovente scoperta ormai più di 10 anni fa, quella dei neuroni specchio, è molto semplice da dire: se io vedo Angela che piange, si attivano nelle mie aree cerebrali corrispondenti emozioni di dolore simile a quello che vedo nel suo volto, e anche se è felice, insomma, anzi mi auguro, ecco, la seconda possibilità. Questo significa che noi è come se fossimo fatti proprio per risuonare l'uno nell'altro, e senza un altro con cui risuonare. Infatti, cioè, anche perché voi sapete che i bambini, anche nutriti, accuditi, piccoli, quando vengono lasciati in certi orfanotrofi, quelli brutti, i bambini deperiscono fino alla morte se non hanno, oltre al cibo, una relazione. Ecco, dobbiamo accettare di dipendere dall'altro e dall'altra, e quindi dobbiamo accettare il limite che l'altro pone alla nostra idea di libertà, che è un'idea sbagliata, e al fatto che noi ci chiudiamo nella logica dei diritti. E questo è un altro aspetto della questione, che però mi direte voi, se ci sono altre domande, perché poi volevo dire qualcosa su questo. Buonasera, volevo fare alcune riflessioni. Come aveva stimolato il discorso della filosofa Luisa Muraro, sì. Volevo dire questo: la possibile regolamentazione di una maternità surrogata, penso che possa ridurre i rischi di un mercato nero, cioè che questa cosa esista lo stesso, ma esista al di fuori di ogni regola, di ogni legge, e quindi una possibile regolamentazione in un'ottica magari realista possa essere, come dire, tra virgolette, il minore dei mali, sempre male. Io personalmente sono contraria, ho una posizione contraria alla surrogacy. E penso a quelle, ecco, se c'è il passaggio di denaro, è un qualcosa di intollerabile, eccetera, però ci sono delle nazioni che ammettono la surrogacy gratuita e quindi tolgono, o parlano di rimborso spese, non so, comunque tolgono, cioè la gratuità toglierebbe il commercio, il mercato. Poi mi viene il dubbio, riprendendo una domanda che era stata fatta da un'altra persona, cioè noi come persona, ecco, se una persona decide volontariamente, liberamente di utilizzare la propria potenzialità e con questa generare reddito legittimamente per liberare da una situazione di povertà, eccetera, se stessa o i propri figli, tra virgolette, perché non concederglielo? Perché c'è di mezzo il nuovo bambino, cioè la cosa è come risolvere i problemi di oggi, risolvere i problemi di oggi in una forma compromettendo, chiamando in causa o pregiudicando la sorte di un altro essere umano che è la creatura che nasce. Questo è vero, anche se penso che lo sfruttamento del lavoro, per esempio delle badanti rispetto alle nostre persone anziane, eccetera, non sia meno. È vero che è un lavoro pagato, però non c'è un terzo di mezzo, terzo che tu metti al mondo. Però se questa persona decidesse liberamente di utilizzare il proprio corpo, ripeto, non ha il terzo. Posso risponderti? Sì. Allora, quando se tu metti al mondo un figlio, un bambino, e questo bambino non lo vuoi, il bambino viene posto in condizioni di adottabilità, non che non ci sia un padre naturale. Mettiamo, non è che tu puoi decidere il destino di questo bambino che hai messo al mondo, cioè tu non puoi, perché il bambino non è tua proprietà, a te viene data la potestà, però la potestà è qualcosa che ti viene data, cioè tu non puoi decidere a chi dai quel bambino lì. Nella surrogazione invece avviene precisamente questo, che il bambino passa dall'essere per un istante, diciamo, subito dopo il parto, una tua proprietà, che tu cedi come proprietà ad altre. Ma la proprietà non ha niente a che fare con l'essere madre, padre e genitori. Non c'è proprietà nella relazione tra gli adulti e i bambini. Vorrei aggiungere una cosa. Io sono contraria al fatto che creiamo dei problemi e dobbiamo regolamentare e dobbiamo fare leggi. Creiamo complicazioni e altre leggi. Ormai non siamo più persone libere, siamo quasi tutto è regolamentato. Questa cosa qui, di questa questo continuo regolamentare finisce perché non sappiamo neanche auto regolarci nei rapporti con gli altri, in forma libera e spontanea. Ecco, questo è per me una delle cose per cui quando mi dicono facciamo la regolamentazione sulla surrogata, ecco, perché questo crea, infatti, e subito saltano fuori problemi come funghi, uno via l'altro, e quindi una cultura e una civiltà deve stare ad una ispirazione, ad un non a rattoppare con regole e regole, oltretutto rendendo così complicata la funzione dei giudici, per cui abbiamo un giudice di qua che fa una cosa e decide con questo criterio, il giudice o la giudice di là che decide con un altro criterio, e i cittadini, le cittadine, noi che veniamo a sapere tutto, ci si disfa, diciamo, ogni senso etico, ogni capacità di capire come faccio io a regolarmi per il meglio, perché se i giudici che hanno l'autorità giudicante fanno di queste cose contraddittorie, contrastanti, portano argomenti uno più complicato dell'altro, che abbiamo paura che noi dobbiamo essere state troppo complicate, se si fa così è chiaro che la civiltà si sbriciola, si sbriciola. Posso aggiungere una cosa a questo che dici tu, Luisa? Regolamentare significa stabilire dei diritti. Allora, i diritti sono quelli a cui tu ricorri quando proprio sei di guai. Cioè, intendo dire, in una relazione amorosa in una famiglia, quando si comincia a dire ma lui ha diritto a questo, tu hai diritto a quello, vuol dire che la relazione è andata a quel paese, cioè quella è proprio l'ultima spiaggia. Non si vede perché noi dobbiamo ricorrere a questa ultima spiaggia, quando io dico nel mio libro, dico noi siamo resistenti e anarchiche come lo fu Antigone, cioè Creonte aveva stabilito il diritto, un diritto, una legge che impediva la sepoltura, per la quale era impedita la sepoltura di Polinice, che era il fratello di Antigone. Ma Antigone faceva riferimento a ben altri principi, che leggi che vengono da prima degli dei, principi di tipo cosmologico. Ma perché noi dobbiamo stare qui a ragionare su come regolamentare una cosa così contro tutto come quello di vendere il figlio di una donna? Cioè, ma sì, che lo sappiamo, perché quelli che sono sempre, insomma, ma se la scienza, sì, io volevo riprendere il discorso della sottoscrizione gratuita che tu sostenevi, anche io la sostenevo, perché se c'è una relazione tra due donne, amiche o parenti eccetera, una vuole aiutare l'altra, va bene, però poi ci ho riflettuto e in effetti non mi trovo più d'accordo, proprio per una questione di civiltà, perché comunque anche nel donare il figlio a un'altra diventa sempre un oggetto di dono, cioè non è necessario uno scambio con il denaro, ma anche uno scambio gratuito è possibile fare di della creatura ad un oggetto di scambio. E allora la domanda è: se tu lo consideri come fosse il sangue o come fosse un rene, come fosse un pezzo semplicemente del tuo corpo, che relazione c'è? Non c'è più una relazione, perché non c'è più due, mentre nel corpo di una donna in gravidanza si forma un altro essere umano. Quindi c'è sono tante pensatrici, hanno parlato di questo del due che c'è, e quindi anche donarlo è sempre fare un oggetto, una cosa, per cui io trovo che anche questo per la civiltà umana è molto pericoloso. Dobbiamo chiudere, io non ti rispondo perché è una osservazione. Grazie.